La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, una puntata piena di ospiti, di film, speriamo anche di buoni film, ma effettivamente una settimana molto ricca fra uscite in sala e qualche uscita ancora in streaming, perché chiaramente ancora, diciamo, i due vasi comunicanti si stanno un po' equilibrando, però pian piano stanno arrivando le proposte in sala, sono state annunciate, sapete già, dal 22 luglio arriva Onward della Disney nelle sale cinematografiche, dal 3 agosto è stato annunciato questa settimana Tenet di Christopher Nolan, uno dei film più attesi della stagione, insomma sono i baluardi sui quali chiaramente la stagione del cinema in sala cerca di rilanciarsi, e partono anche una serie di arene estive, tra l'altro fra le quali dobbiamo annoverare anche quella che posso definire la nostra, quella in cui personalmente ho avuto modo di scegliere i film, ne parleremo alla fine di questa trasmissione, anche perché per gli amici e gli ascoltatori della Rosa Purpurea ci saranno delle condizioni speciali per questa arena Milano Est a Milano, appunto nella zona di via Rubattino, in via Pitteri, nel mitico e storico spazio dei Martiniti. Insomma, il cinema all'aperto va, funziona, il cinema al chiuso pian pianino prova a riprendere le sue posizioni, il cinema in streaming è stato il nostro compagno durante tutta la pandemia e ancora ci dà qualche spunto, come per esempio il primo film di cui vogliamo parlarvi, Eurovision Song Contest The Fire Saga Story, uno dei titoli più lunghi della stagione sicuramente, se non della storia del cinema, però un film abbastanza bizzarro che prova secondo me a ripercorrere alcune tracce di Mamma Mia, cioè il racconto di una coppia abbastanza strampalata di cantanti islandesi che cerca di fare bene, di qualificarsi prima e poi addirittura di provare a vincere l'Eurovision Song Contest, l'Eurofestival come lo chiamavamo un tempo, dove partecipano, come sapete, i vincitori dei vari festival della canzone di tutta Europa, una specie di Champions League della canzone europea. Ebbene, questo gruppo islandese sembrano avere molte chance, abbastanza bizzarro, formato da Will Ferrell e Rachel McAdams, i due protagonisti, insieme a loro altri nomi importanti del cinema come Pierce Brosnan o Demi Lovato. Facciamoci raccontare questa storia tutta nordica, tutta piena di musica e piena di cuore, diciamo, musicale, dalla nostra Chiara Pizzimenti. 42 nazioni, centinaia di artisti e un pubblico globale di 180 milioni. Questo è l'Eurovision. Wow! È il fascino dell'Eurovision quello che colpisce due bambini islandesi in una delle edizioni rimaste nella storia, quella del 1974, vinta dagli ABBA. Da quella sera, da quell'ascolto di Waterloo, non a caso canzone di disfatta, Lars ha un unico sogno, quello di vincere la competizione che mette insieme i cantanti europei. Sigrid lo segue fin da bambina e di lui si innamora. Tutta l'Islanda pensa che siamo ridicoli. Non è vero. Mio padre si vergogna di me. No, non è vero. Mi ha guardato e ha detto: sai, mi vergogno di te. Magari era sbronzo. Ha detto: forse penserai che sono sbronzo, ma sono del tutto sobrio. Idiota. La loro passione per la musica e il sogno dell'Eurovision non sono condivisi dal resto del villaggio e nemmeno dal resto dell'Islanda, ma una serie di casi porta i Fire Saga, questo è il loro nome, a essere i rappresentanti del paese alla manifestazione. Ingenui all'inverosimile, si ritrovano fra gli altri cantanti e sul palco con una prima esibizione disastrosa. Sarà però questa a far arrivare il duo alla finale. Where the mountains sing through the screams of seagulls. I Fire Saga non si arrendono. Questa sera è la nostra sera. Non avete una sola possibilità di farcela. Questo film è ancora più improbabile di certe mise canzoni del vero Eurovision Song Contest, che spesso però è guardato proprio per queste caratteristiche folli. Anche la pellicola va in questo senso. Will Ferrell, che l'ha scritta e fortemente voluta, forse puntava a fare alla maniera sua e di certo Saturday Night Live, una satira di una cosa che per larga parte fa già ridere, ma alla fine sembra celebrarla, e il fatto che dovesse uscire in contemporanea con la trasmissione fa pensare a un pacchetto fin troppo costruito. Sua compagna è Rachel McAdams e Pierce Brosnan fa suo padre e compaiono veri cantanti come Demi Lovato e Conchita Wurst. I personaggi sono volutamente macchiette, lo sono troppo, ed è davvero difficile entrare in empatia con i protagonisti, il che fa perdere senso all'intero film. E questo era Eurovision Song Contest The Fire Saga Story su Netflix, non avevamo detto prima, il film è disponibile appunto sulla piattaforma di Netflix. Adesso diamo la linea alla viabilità, fra poco torniamo insieme, cominciamo ad entrare un po' in contatto con i protagonisti, che parleremo di Si muore solo da vivi, e sarà con noi un ospite abbastanza sorprendente nel mondo del cinematografico, ovvero Red Canzian, ex bassista dei Pool, lo ricorderete, grande artista della musica leggera italiana. E poi Cambio tutto, invece disponibile su Amazon, con una bravissima Valentina Lodovini che sarà con noi fra poco. Dobbiamo festeggiare. Come, che cosa? La busta? Sì, la busta paga. No, non l'ho ricevuta. L'ho appena chiusa. Anzi, le ho chiuse tutte. Oggi chiudere le buste paga rende felici come aprirle. Con Sistemi la procedura è semplice e veloce. Grazie a Job, il software paga è costantemente aggiornato, che garantisce un'assistenza sempre a portata di mano. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. La rosa purpurea. Camminare stupiti, ok, si può fare. Siamo allenati a spiare. Zero problemi. Si muore solo da Si muore solo da vivi, canta la canzone di Diego Mancino e Stefano Brandoni, ed è il titolo, Si muore solo da vivi, del film di Alberto Rizzi, che arriva in PVOD, come si dice in gergo, cioè in streaming a pagamento su tante piattaforme, quelle le più svariate, le più importanti, Chili, Rakuten, eccetera, eccetera, quelle che trovate online. Un film, una commedia strana, con una... come dire, un feeling quasi surreale in molti momenti, anzi, dove il sogno, l'onirico sono proprio una componente, quasi che quella vicinanza del Po, del grande fiume, come dire, oltre a poetizzare di fatto un po' tutto l'ambiente del film, portino proprio i protagonisti a una dimensione altra rispetto al realismo, alla realtà. La storia, protagonista Alessandro Roia insieme ad Alessandra Mastronardi, Neri Marco Re, Francesco Pannofino, il grande Ugo Pagliai, è un ospite che fra poco vi spiegheremo, è la storia di un ragazzo che, come dire, si trova a dover gestire il rapporto con una bambina dopo che questa piccola è stata privata dei genitori dal terremoto dell'Emilia, che gli ha portato via appunto il fratello e la cognata. Appunto Orlando, interpretato da Alessandro Roia, cerca una ripartenza difficile, perché quello che è successo sembra avere un po' ammantato tutto di una situazione quasi sospesa. Stimolato dai genitori a fare qualcosa, a provare a ripartire, non trova di meglio che fare quello che sa fare meglio, ovvero riprovare a suonare, rimettere in piedi la vecchia band che aveva avuto esordi promettenti e si era un po' poi fermata, naufragata come tante altre band, tra l'altro gestita da una manager che ha una mandalir strepitosa. Tutto questo per inseguire il sogno, una come dire, un'uscita da se stessi, ma anche provando a ritrovare se stessi di fatto, e anche col sogno di rifare in qualche modo il successo che è capitato al cosiddetto grande musicista, che non viene mai citato per nome e cognome, ma è il musicista di riferimento, quello dei dischi d'oro, quello dei dischi di platino. Questo incontro avverrà in un momento su un battello, nel quale appunto il fiume fa da culla e i pesci saltano felici, e è un grande musicista davvero, ed è Red Canzian, storico bassista dei Pooh, che ha in collegamento telefonico con noi. Ciao Red, grazie per essere qui alla Rosa Purpurea. Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti. Allora, il grande musicista, una scena con attori straordinari in un battello pieno di belle ragazze che si muove sul fiume, dove con degli occhiali strani, quasi da aviatore, andate a vedere i pesci che saltano. Insomma, siamo dalle parti di Fellini più o meno, no? Ma infatti io credo che questo regista abbia moltissime influenze felliniane, ed è meraviglioso perché questi momenti così onirici che tu citavi nella presentazione del film mi hanno riportato al vecchietto che esce dal cancello nella nebbia di Amarcord e dice: ben se questa è la morte, che brutta che è. Cioè è strano, è un film strano, però allo stesso tempo commovente, perché io mi sono, non quando recitavo io, in altri tre punti del film mi sono commosso, perché ho trovato una grandissima poesia, ed è una poesia, è vero, dettata dal grande fiume, dettata da questi attori bravissimi, perché Neri Marcorè fa una parte meravigliosa, Ugo Pagliai, che poi siamo stati insieme due giorni, è una persona fantastica, e io non ho fatto altro che interpretare, insomma, il ruolo del mio mestiere, per cui ho cercato di dare dei consigli a questo ragazzo che aveva smesso per una donna di trovarsi una nuova donna e avere un buon motivo per ricominciare. No, grande musicista. Che qui ancora nessuno mi ha riconosciuto. In certi casi il regalo più bello che può farti il successo è proprio l'anonimato, sai? Io non lo so, vedo soltanto l'anonimato. Senti, ma te che ci fai qua? Il capitano mi ha promesso che stanotte mi porta a vedere i cefali. Sei pronto? Capitano, andiamo in moto. I cefali saltano, se non stai attento ti cavano un occhio. Dire che tu, se posso, prendo un altro casco, venite. Andiamo. Ti volevo chiedere, Red, il tuo rapporto col cinema qual è? Ne sei un fruitore? Vai in sala quando sono ovviamente aperte e disponibili? Di cinema, di momenti, di fotogrammi di cinema, anche di citazioni di cinema nella musica dei Pooh ce ne sono state tante, voglio dire. Che rapporto hai con questo tipo di arte? Allora, il cinema mi piace, il cinema. Durante la quarantena ho utilizzato moltissimo Netflix sull'iPad, perché quella era la possibilità di vedere tanti film. A me però il cinema piace, al cinema proprio mi piace sedermi nel silenzio, nel buio, il volume forte che mi arriva addosso mi coinvolge anche a livello sonoro. Io feci il mio primo film a 19 anni con i Capsicum Red, perché She's a Stranger, il retro del mio primo singolo, era il titolo di un film girato a Roma, un film terribile che credo sia uscito, ma non ha avuto, diciamo che non mi hanno chiamato per il David di Donatello neanche per l'Oscar. Comunque lì recitavo me stesso che cantavo con la band in questo film. Poi feci Il provino di Morte a Venezia con Luchino Visconti, e c'eravamo io, Ron e quel ragazzino che poi hanno preso a fare il film. Io e Ron probabilmente già parlavamo un po' troppo di musica ed eravamo un po' distratti durante i provini. E poi le mie esperienze cinematografiche si sono fermate qua, fino a quando ho fatto I Fratelli Caputo, che uscirà in ottobre con Frassica e Bocci, una fiction, e poi mi hanno chiamato per fare questo, e devo dire che l'emozione del film, proprio quello con la F grande, proprio bello, andare a Verona a vedere la prima, il 20 sera siamo andati a vedere la prima al cinema con tutti insomma i giornalisti, gli attori, è proprio bello, è una bella emozione. Ma sai, non è molto diverso dalla musica, perché comunque è un mezzo per comunicare, è un mezzo per raccontare te stesso o l'opposto di te stesso, come puoi fare con una canzone. E allora, si muore solo da vivi. Grazie Red, a risentirci. Un abbraccio amico mio, arrivederci a tutti. Red Canzian, quindi l'ospite d'onore, se vogliamo, di questo film Si muore solo da vivi, che è in streaming a pagamento sulle varie piattaforme. Noi siamo arrivati al momento di giocare insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Ascoltate bene. Perché vuoi lasciarti morire di fame? A che serve seppellirti viva? Bevi qualcosa. E allora, se avete già indovinato, e se avete già indovinato siete proprio bravi, devo dire, questo è il nostro film misterioso di oggi, è un film che è un classico di uno dei nomi più grandi della storia del cinema. Il nostro indirizzo di posta elettronica è larosapurpurea@radio24.it, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo. Più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia, vi aspettano due Blu-ray in edizione restaurata di questo film. Vi siete mai baciati voi due? Ah beh... mai mentre laviamo i piatti. Perché è la scena che dovete girare nel corto di Erika. Due che si baciano. Te l'ho detto che rompeva le scatole col suo stupido film. Hai detto a mamma che non ci coinvolgevi, no? Allora non stare addosso ai miei amici con questa idea del cavolo. Non è un'idea del cavolo, solo che mi sarebbe piaciuto saperlo prima. Che differenza fa? Tanto state sempre a fare la lotto o a farvi le treccine, voi due. E avete sentito una clip del film Matthias e Maxim, che è arrivato sulla piattaforma di Mio Cinema, quella dove potete individuare una sala del territorio a vostro piacimento e vedere il film in streaming, ma come dire, pagando di fatto anche il prezzo dello streaming in parte alla vostra sala preferita del territorio. Un film di Xavier Dolan, uno dei registi più importanti della nuova scena del cinema mondiale, ormai assolutamente affermato da tutti i festival, tanti film di grande successo, Lawrence Anyways, Mommy, Tom alla ferme, e il film che arriva dopo il suo primo film americano, La mia vita con John F. Donovan. Xavier Dolan torna a girare nel suo Quebec e con un film più piccolo, un pochino più indipendente, che riabbraccia i temi a lui più cari, la ricerca della propria identità sessuale, soprattutto il rapporto tra diverse generazioni. Noi ne parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, questo Matthias e Maxim, come lo collochiamo? Mi sembra un po' il Dolan più ruspante, più vicino a quello delle origini. Sì, sembra essere tornato indietro ed è una buona cosa, nel senso che non è una considerazione negativa, perché il più ingenuo, il più ruspante, come dici tu, è anche secondo me il migliore, quello che si è poi andato via strutturando tra America e partecipazione ai festival ha cominciato a diventare più dolaniano che Dolan. E qui recupera i suoi temi più cari, l'identità sessuale, l'eccezionalità di un certo tipo di età, l'amicizia come rete ma anche come ragnatela in cui si può rimanere intrappolati, e anche il gioco con il cinema all'interno del cinema, il metacinema, questo corto di Erika che noi non vedremo mai ma che è al centro di tutto quello di cui parliamo e di quello che proviamo. Come sempre Dolan qui dimostra quello che secondo me ha dimostrato sempre all'inizio della sua carriera e anche nel proseguo, dimostra di essere il miglior motore propulsivo di se stesso ma anche allo stesso tempo il più grande limite, quello che lo porta ad essere innamorato di sé, del cinema che fa, degli argomenti che racconta. Questo perché? Perché succede una cosa che succede spessissimo nei suoi film: a un certo punto c'è una fine perfetta che è a tre quarti del film, che renderebbe il film assolutamente lineare. Chiaramente non la dico perché non si può fare spoiler e non vogliamo, perché una delle cose belle del cinema di Dolan sono i bivi, e lui la ignora perché deve in qualche modo dimostrare a se stesso e agli altri sia quanto è bravo, sia quanto è arguto e quanto è emotivamente feroce nel scoperchiare, denudare i nostri sentimenti e le nostre emotività. Molto meglio invece il rapporto tra i due protagonisti, il racconto di questa comitiva fatta di bambini che non sono mai cresciuti, anche proprio fisicamente hanno un rapporto che continua a giocarsi su un modo infantile di raccontarsi e di venire in contatto, meno quando appunto Dolan, come molti della sua generazione o vicini della sua generazione, esce fuori da quel metodo di racconto per cercare una storia più strutturata, un lavoro di sceneggiatura che sembra invece in quel caso molto più lezioso. Detto questo, come abbiamo già detto tante altre volte, forse non ha ancora fatto il suo capolavoro, ma di sicuro conferma ogni volta tutto il talento che ha. Sembra un po' quel calciatore che magari non riesce a vincere ma che ruba l'occhio ogni volta che gioca a pallone. E assolutamente, noi ce lo godiamo così, almeno per il momento, Xavier Dolan. Quindi Matthias e Maxim sulla piattaforma Mio Cinema. Boris, rimani con noi perché fra poco parleremo di un film veramente molto molto interessante, divertente, con un personaggio pazzesco che si intitola Tony Driver. Però subito dopo la pausa sarà con noi Valentina Lodovini a raccontarci il suo Cambio Tutto. Fra poco. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. e noi ogni giorno ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. La rosa purpurea. Allora, lei è Giulia ed è la signora che mi farà da assistente in questa nuova avventura. In-house marketing alla Venti Dolci. Sa anche le lingue. Wow! Lo so, ragazzi, lo so! Allora, ragazzi, per adesso vi devo lasciare, perché c'è un sacco di lavoro da fare qua. Ciao, Ludo West. Godetevi la vita! Ma sono io il responsabile marketing? Sì, e lei è la supervisor del responsabile marketing. E avete già inquadrato un pochino l'atmosfera che si respira nel film di cui vogliamo parlarvi all'apertura di questa terza parte della Rosa Purpurea. Cambio tutto, il film è disponibile in streaming su Amazon Prime con Valentina Lodovini nei panni di una responsabile marketing di un'azienda di beni di largo consumo che a un certo punto si vede superata da questa Ludoers che è tutta melliflua. Cerca di far capire che insomma il marketing sta andando da un'altra parte, ormai si svolge tutto per i milioni di contatti sui social, passa tutto da lì e in fondo il mestiere invece di sapere come posizionare un prodotto non serve più. In effetti non è l'unica cosa che sembra non servire più nella vita della protagonista di questo film, diretto da Guido Chiesa, quindi da una firma importante del nostro cinema. La protagonista ha una vita sentimentale anche abbastanza, come dire, particolare, perché ha sempre cercato con toni morbidi di assorbire un pochino le negatività che giravano anche intorno a casa, con una Brescia artista abbastanza fuori dalle righe, ma tutto sommato arriva anche il momento in cui bisogna ribellarsi. Sentiamo. Amore, il tecnico di internet ha suonato per mezz'ora, non l'hai sentito? Ma perché gridi? Eh? Perché gridi? Con sta musica! Ti sei dimenticata che io mi concentro così? No. Poi vabbè, d'accordo, allora se tu vuoi che io smetto di lavorare per andare a rispondere al tecnico di internet, a quelli che vendono gli aspirapolvere, testimoni di Geova, io lo faccio. E questo è quello che vuoi? Dillo. E io lascio tutto, basta, finito, lascio tutto. No, scusami. Vuoi cenare? Sì, grazie, tanta fame. Però ascolta, ti prego, non adesso, 11 e mezza. La ribellione arriva però dopo che un guru, un Neri Marco Re straordinario, counselor olistico, e questa me la sono segnata, fa riflettere su alcune cose. E noi siamo in collegamento telefonico con la grande, devo dire, protagonista di questo film, Valentina Lodovini, che è con noi. Ciao Valentina. Ciao, grazie mille. Grazie a te di essere andata dal counselor olistico, così a quel punto è scattata la ribellione e la seconda parte del film, no spoiler ovviamente, è un crescendo di fuochi d'artificio. Bello il tuo ruolo, perché giochi su due toni molto diversi e riesci comunque a renderli credibili anche attraverso un ruolo mediano, diciamo così, di transizione fra il momento assorbimento e il momento move le do a tutti, che sono i due poli di questo film. È proprio la ricerca di te stessa, secondo me, il viaggio della prima parte del film, cioè quello di smarcarsi da quello che credi di essere e da quello che chi ti sta intorno ti fa credere di essere, riscoprirsi, esatto, sì. E partire da lì. Esatto. Sì, ma penso che insomma è una sensazione che si conosce, no? Io ti dico, una delle motivazioni, cioè, che mi ha spinto ad accettare di fare il film è stato proprio il fatto che ci si può identificare, e non è così, è abbastanza raro secondo me trovare sceneggiature in cui il personaggio è vicino al pubblico, no? E questo è un qualcosa che comunque Giulia Santini ha e lo aveva anche nero su bianco, la scrittura è stata una delle motivazioni che mi ha fatto dire di sì, proprio perché si conosce. Come dici te, è un viaggio comunque all'interno di noi stessi, e penso che ci è capitato a tutti, anche alle persone più sicure, no? Di a un certo punto traballare, mettere in discussione e chiedersi: ma che cosa voglio? E tra l'altro è interessante che questo avvenga attraverso questa figura, appunto, il consulente olistico Steve Bianconi, Neri Marco Re, che poi si rivela essere anche lui un po' farlocco, ma non importa, perché era importante che una scintilla esterna. Un credo. Ci sono, esatto, momenti anche lì nella vita in cui devi avere un credo, no? Perché comunque è doloroso. famoso, comunque sono cose complesse, no? Sono difficili, anche il guardarsi dentro, il cambiare, il trovare il coraggio di mollare le cose, bla bla bla, eccetera eccetera, hai bisogno di aggrapparti a qualcosa, questo è in dubbio secondo me, e quindi qualsiasi sia in quel momento la fede va bene, diciamo, si aiuta. Un'altra cosa sicuramente interessante è quello dell'accettazione del proprio corpo. Giulia è una donna bellissima, beh, non poteva che essere così con Valentina Lodovini, ma che non si accetta tanto, che sale sulla bilancia sempre con quella sorta di paura, no? Di vedere un peso che non è quello che vorrebbe, che non è conforme all'immagine che la società vuole e chiede a una donna. E a un certo punto questa accettazione, questa sorta di auto body shaming sfuma, bisogna dare una spallata. Ecco, questo mi sembra un segnale molto importante per tante donne e per tante ragazze. Beh sì, questo è... direi che è fondamentale, penso che bisognerebbe lavorare, sono tanti i fattori su cui dovremmo lavorare culturalmente parlando, uno tra questi è anche la fobia che si ha nei confronti del femminile, che spesso passa anche attraverso a come si è fatti, no? se si hanno chili in più, chili in meno, l'età e via dicendo, e questo forse è un problema che prima di tutto andrebbe scartinato proprio nel rapporto tra donne e donne, perché troppo spesso la fobia al femminile tra donne e donne si basa proprio su quello, su come uno si presenta in qualche modo, no? Certo. Poi ci sono pure gli uomini, per carità, che te lo fanno sentire. Però sicuramente in quel caso ti colpisce più, come accade alla fine anche nel film, no? Ti colpisce, probabilmente Giulia viene più ferita da quando una donna le dice sei una 44 in tono dispregiativo, anziché quando viene bombardata quotidianamente dagli uomini che fanno riferimento a questo, comunque un qualcosa che sì, non è giusto, che basta, posso dire annoiato, ha veramente annoiato. Comunque il mondo della moda forse si sta ridimensionando, mi pare. Assolutamente, no, ma è importante fare un lavoro culturale su questo aspetto qui, perché poi sì, ci sono anche conseguenze anche molto gravi, soprattutto sulle adolescenti. Grazie davvero a Valentina Lodovini, ricordo Cambio Tutto su Amazon di Guido Chiesa, già disponibile in streaming. Grazie ancora. Grazie, grazie mille. E siamo arrivati alla seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Quando il corpo del marito, alla usanza greca, fu deposto nella cripta, la vedova, così onesta e fedele, non se ne volle più andare. Notte e giorno vegliava e piangeva. Ecco, questa pronuncia, questo clima un po' onirico ci portano forse un po' più dentro il feeling di questo film e di questo grandissimo, straordinario maestro della storia del cinema, del quale fra poco tra l'altro parleremo. Se avete indovinato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosapurpure@radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano e che fra poco sveleremo. In America. Che cazzo ne era l'America? Che in America vogliono mandare via tutti, non vedi? Io sai come voglio l'America? Sì, pensare alla cosa e non pensare all'America. Lo sai come devo andare all'America? Sì, con l'aereo. Devo andare al Messico prima. Sì, è meglio che andare di noi. Io non voglio l'America, dal Messico. Poi ci vanno le coyote, le serpenti, le scorpie, gli attraversare. Che ti fai? Io lo so come si attraversa il deserto. E poi che fai? Voglio l'America, Chicago. Da giù esci fino giù 1200 km, fino a Chicago. E poi? E devo visitare mio figlio. Ah, e basta? E basta. E poi te li tieni? No. E allora ti arrestano? No. E tu che cazzo di lì non ti prendono a lavorare se non hai documenti in giro? Sai, lavoro nero, però io faccio mi sposo un'altra volta, mia moglie, sì, e mi faccio diventare cittadino naturale. Sì, io ti trovo moglie, ti sposo. Sì. Mia moglie mi sposa. Tony Driver. You're all in a spin. Tony Driver, il film di Ascanio Petrini con lo straordinario personaggio vero di Pasquale Donatone, la storia di un uomo veramente da film, di una vita da film, emigrato a 9 anni in America, a Chicago, poi espulso perché, vabbè, piccolo particolare, faceva trasbordo di immigrati clandestini dal Messico e quindi è stato espulso, è tornato in Italia. In Italia però non ci vuole stare, vuole tornare in America dove ai figli da andare a trovare. Avete sentito il suo piano sgangherato in questo anglo-pugliese molto particolare, quello di attraversare il deserto dal Messico per scavalcare il muro di Trump e ritornare in America, come fosse una cosa facile. Ma ogni momento di questo film è un momento di grande cinema, perché come raccontava Scagno Petrini, il regista, le riprese erano state fatte nell'ottica di fare poi un film di finzione, ma poi era talmente bravo lui e talmente vero lui nelle riprese che hanno deciso deciso di montare quelle riprese e farne un documentario, che però è un documentario fortemente narrativo, vero Boris Sollazzo? Beh, immaginate The Mule diretto da Pippo Mezzapesa e Minervini insieme, forse avete vagamente idea di che cosa può essere questo autodocudrama, ecco, lo potremmo chiamare così. Riscrive un po' tutti i generi, in generale Tony Driver è come il suo personaggio, non puoi non amarlo, anche nei suoi difetti, e questo vale sia per il personaggio sia per il film, perché il film qualche sporcatura ce l'ha, ma capisco benissimo quello che dice il regista, perché il materiale che si è trovato davanti, come quello che ci troviamo davanti noi, è talmente potente, talmente forte, talmente sopra le righe, ma allo stesso tempo coerente, che è impossibile non montarlo, ed è impossibile non guardarlo, e bisogna sospendere anche in qualche modo il giudizio critico di fronte a certi personaggi. Quando si parla di cinema del reale, a volte va detto che nel momento in cui riesce a fictionarlo, scusate la bruttissima parola, in coerenza e in ossequio a quello che hai davanti, diventano dei piccoli gioielli. E Tony Driver è esattamente questo, un lavoro di una potenza incredibile, con un personaggio che ha dei lineamenti che raccontano tutto, che ha un modo di parlare che è già pazzesco, appunto quell'angolo pugliese che tu raccontavi, e che diventa una grammatica cinematografica, e con tutto questo nell'inconsapevolezza di essere probabilmente il miglior attore della propria vita, perché poi non è affatto facile raccontare tutto questo. Il regista ha un grande merito, quello di aver avuto la sensibilità di trovarlo, di capirlo e di mettersi da parte, perché in qualche modo ha dovuto e ha voluto raccontare la sua storia, quando legittimamente magari voleva un racconto di finzione in cui mettersi di più alla prova. E il cinema è proprio questo, mettersi da parte quando la storia è più grande di te, e metterti al servizio di quella storia, anche se si tratta di mettersi al servizio di un personaggio folle come Pasquale Donatone, che rimarrà nei nostri cuori, nella nostra testa, e che ha tutto probabilmente per continuare. Il mio timore è che non potrà mai diventare un bravo attore, perché come ha interpretato se stesso non potrà interpretare nessun altro. Assolutamente, questo è molto molto probabile, ma questa faccia e questo modo di parlare assurdo davvero, e questi principi quasi da bambino il corpo di un ultra cinquantenne, ci rimarranno invece bene in testa. Ricordo che Tony Driver è online su Wanted Zone, che è il sito di streaming della casa di distribuzione, la Wanted Cinema, ma anche in sala al Beltrade di Milano, al Rossini di Venezia, al Pecci di Prato, al Farnese di Roma e tanti altri film che potete appunto trovare sulla pagina di Wanted. Grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema, finalmente in sala anche. Eh sì, finalmente in sala, sempre di più. A questo punto noi diamo la linea alla viabilità per l'ultima volta. Fra poco torniamo, parliamo di un paio di iniziative che ci riguardano da vicino, e sarà con noi Francesca Fabri Fellini, nipote di Federico Fellini, e ci racconterà l'esordio dell'arena estiva Milano Est con i Vitelloni, alla quale anche lei presenzierà fra poco. Ciao, sono Enrico Pagliarini. Mi sto domandando come sarà il mondo fra 14 anni. E allora spostiamo in avanti l'orizzonte e vi presentiamo 2024 più 10 interviste sul futuro. Una nuova serie solo in podcast su radio24.it. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte del nostro programma. Adesso, prima di affrontare i film da vedere in casa in chiaro con Giulio San Giorgio, vogliamo parlarvi di due iniziative che ci riguardano. La prima, proprio stasera dalle 20:30 c'è a Bardolino un incontro che modererò personalmente io con il grande Pupi Avati. Pupi Avati parlerà di cinema, della sua carriera. Poi Pupi Avati è uno straordinario storyteller, un narratore incredibile, e introdurrà la visione del suo ultimo film, Il Signor Diavolo, nello splendido scenario di Villa Carrara Bottagisio. Ascoltiamo l'invito che ci ha mandato già qualche giorno fa sui nostri social Pupi Avati alla visione di questa sera. Salve a tutti, sono Pupi Avati. Ci vediamo sabato sera 27 alle 8:30 a Bardolino per parlare di cinema, per vedere assieme Il Signor Diavolo e parlare di tutto quello che è la mia vita e il mio rapporto col cinema e di tutte le vostre curiosità. Vi aspetto. E questo era Pupi Avati. Insomma, vi aspetto anch'io dalle 20.30. Siete in zona Lago di Garda, più o meno, dal Veronese al Lago di Garda, al Bresciano, eccetera, e volete fare una serata veramente interessante, perché Pupi Avati, sentirlo parlare, è un'esperienza davvero unica. Tra l'altro si brinda a Chiaretto e Bardolino, quindi, come dire, cadiamo bene. Poi la proiezione del Signor Diavolo. Seconda iniziativa che ci riguarda, a partire da venerdì prossimo, 3 luglio, inaugurazione, e poi tutti i giorni di tutta l'estate fino a settembre, dell'Arena Milano Est, nello spazio Martinit di Via Pitter, dove già c'è un teatro cinema che funziona tutto l'anno. Arena estiva per tutta l'estate, per tutti i giorni, con il meglio del cinema di questa stagione, ma anche tutto quello che è passato in streaming durante il Covid e che noi portiamo in sala, anche tra l'altro con molti ospiti che ci hanno già confermato la loro presenza. L'8 di luglio ci sarà Aurelio Grimaldi a presentare Il diritto Mattarella, il 15 ci sarà Emanuela Rossi che porterà Il suo buio, il 29 ci sarà Alberto Ferrari a presentare Un figlio di nome Erasmus. Insomma, tutti i giorni e tutti i programmi sono sul sito e li abbiamo pubblicati anche sulla nostra pagina Facebook. Lo faremo ancora, e tra l'altro gli ascoltatori della Rosa Purpurea avranno la possibilità di avere prezzi davvero speciali per l'ingresso, presentando un voucher che pubblicheremo appunto sui nostri social. L'apertura, dicevo, venerdì 3 luglio, con un classico di tutti i tempi del cinema mondiale. Stiamo parlando dei Vitelloni di Federico Fellini in copia restaurata. Lavoratori! Lavoratori della pasta! Ma che asta macchina, ma che c'ha? Ti fermi! Scendi, apri il cofano, vai. Ma fai qualche cosa, eh? Come non cosa fai? Vuoi che faccia? Ma come? Fai passare. Forza, su. Fammi un po' passare. Guarda questo che torna. Fa preso. E per parlare dei Vitelloni, per parlare di questa inaugurazione dell'Arena Milano Est in via Pitteri a Milano, c'è con noi Francesca Fabbri Fellini, che è in collegamento telefonico. Ciao Francesca! Ciao Franco! Ciao, ben ritrovata, ben ritrovata. La nipote di Federico Fellini, l'ultima della stirpe, perché dopo Francesca la stirpe Fellini, mi par di capire, si esaurisce, no? Eh sì, sono l'ultima per DNA di questa bellissima famiglia. Io porto in giro per il mondo il racconto dello zio Federico, di tutta la sua carriera, della sua vita, dello zio Riccardo e anche di mia mamma, perché i tre Fellini sono state tre creature straordinarie e uniche. E questo racconto ce lo farai anche venerdì sera, 3 luglio, all'Arena Milano Est, intorno alle 21, quando cominceremo. Poi il film chiaramente comincerà con il buio verso le 21.30, però racconteremo appunto che cos'è stata l'esperienza dei Vitelloni e che cos'era quel film per tuo zio Federico. Che tipo di rapporto aveva con i Vitelloni? Ma era un rapporto importante, innanzitutto perché devi sapere che Flaiano aveva scritto questo soggetto e l'aveva immaginato a Pescara, quindi come location aveva immaginato Pescara, mentre invece lo zio Federico lo trasportò assolutamente nella sua Rimini, nella sua terra natale, quindi è molto legato a Federico. È uno di quei tre film che io definisco una trilogia collegata a Rimini, che sono i Vitelloni, i Clown e Amarcord. Quindi c'è una descrizione in bianco e nero, un bianco e nero meraviglioso con le musiche raccontate dall'unico e grande compositore che ha lavorato con lo zio Federico, poi certo ricordiamo anche Nicola Piovani, ma era Nino Rota, e Nino Rota ha fatto il commento musicale a questo film, dove ci sono cinque protagonisti che sono il donnaiolo, l'immaturo, il biscazziere, l'intellettuale e l'ingenuo, con grande interpretazione di attori, con un Alberto Sordi da sottolineare, fantastico, grande amico di Federico, e bravo Franco che l'hai scelto proprio per inaugurare in questo centenario che è diviso tra Federico e il nostro Albertone nazionale. Assolutamente. Per ricordarli insieme. E faremo anche durante il mese poi di agosto anche lo Sceicco Bianco, perché è l'altro film che li ha uniti e ci sembrava giusto farli vedere tutti e due sul grande schermo in copia restaurata. Francesca, grazie per essere stata con noi, ti aspettiamo, ricordiamo ancora l'appuntamento, 3 luglio, venerdì sera, Milano, via Pitteri, Arena Milano Est, nello spazio Martinit, tutte le indicazioni sui nostri social, e ricordo ancora ai nostri amici ascoltatori che vorranno partecipare, ci sono condizioni speciali che spiegheremo sulla nostra pagina Facebook della Rosa Purpurea. Grazie ancora Francesca. Grazie Franco, e venite in tanti, vi aspettiamo. Ciao. Ciao. E allora adesso passiamo ai film da vedere in casa, cominciando come sempre con il ricordare, il nostro game di 7 giorni fa. Ho perso il mio cane di testa. Tarderemo 2 giorni se siamo fortunati. E non lo siamo mai. sarà meglio che ti tieni forte. Sì, come no. Ok, Buck. E allora, si trattava del richiamo della foresta, l'avevamo detto alla fine della scorsa puntata. I vincitori sono Giancarlo Zane di Mestre e Giovanni Traina di Bologna. Sono i nostri due ascoltatori che per primi hanno indovinato il titolo del film misterioso che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV in questa edizione Blu-ray. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, da un classico della letteratura per ragazzi e non, il romanzo di Jack London, la storia di un cane, Buck, e della sua lotta per sopravvivere nei ghiacci del nord, passando con alterne fortune di padrone in padrone fino all'incontro felice con il burbero bonario John. Harrison Ford, mentre sotto al folto della computer graphic della bestia si agita in motion capture Terry Notary, uomo animale di professione da Kong Skull Island a The Square. Ed è impossibile non ravvisare lo sguardo di questo attore dietro agli occhi del cane, uno sguardo espressivo pieno di emozioni, umano insomma, forse troppo umano, anche perché la storia va nella direzione opposta. Il film comunque è godibile, in ottimo riversamento DVD e Blu-ray, con extra interessanti soprattutto riguardo al lavoro sul set. E le chicche invece che ci ha raccolto Film TV per questa settimana dai palinsesti in chiaro della prossima cominciano con un film turco-tedesco, si intitola Muffa. Domenica, Rai 5, 23.05, Muffa, Basri, turco, sessantenne, chiuso in se stesso e ancorato soltanto a un'attesa, ovvero che il figlio scomparso ritorni. Passano 18 anni, Basri è ancora lì, triste, alienato, gentile, persiste ad ascoltare la radio che il giovane gli regalò, si ostina a scrivere lettere al Ministero degli Interni e alla Questura, chiede tracce e gli rispondono: suo figlio era avverso alle politiche del governo, punto. È cinema morale tesissimo questo Leone del Futuro alla 69esima Mostra di Venezia, un'opera prima che narra dei desaparecidos, dei vuoti creati dal governo turco negli anni 90, del dolore di chi è rimasto, dell'assenza di catarsi e di risposte. La geometria inflessibile mima la logica antiumanista del potere, mentre c'è una storia dostoevskiana che vuole fortissimamente, che necessita di farsi raccontare, nonostante le ellissi, le lacune, i buchi, gli abissi che le costruiscono intorno. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, e la prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti così alla fine della nostra trasmissione. Come sempre, l'epilogo è dedicato allo svelamento del nostro film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con proprio Federico Fellini, con Satiricon di Fellini, uscito recentemente in edizione restaurata. Ci sono due copie in Blu-ray che vi aspettano. Settimana prossima annunceremo i vincitori. Io vi aspetto questa sera a Bardolino, se ci siete, dalle 20.30 con Pupi Avati, e da venerdì prossimo all'Arena Milano Est, qui a Milano, con i film tutti i giorni, il meglio del cinema di questa stagione. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.